Yo, right over. Sulat Production, TML, Lil Jeff. Ragazzi, non rimanete zitti per quello che provate per le vostre ragazze. Ditelo e basta. Come on. Yeah. Primo bacio che ti ho dato, ho sentito che con te sarebbe stato diverso. Non so il perché, non me lo chiedere. Ti posso solo dire che l'amore è grande per te, oh. E sapere che tu sei mia, tutto questo mi rallegra e mi ha cambiato la vita. E sai com'ero, te l'ho anche detto. Un motivo per partire all'esercito. Non aveva niente un senso, tutto era diverso. Mai non restava niente, dovevo solo andare e partire da civile a militare, cambiando tutto. Un giorno chissà, morire per niente. Non aveva niente un senso, tutto era diverso. Mai non restava niente, dovevo solo andare e partire da civile a militare, cambiando tutto. Un giorno chissà, morire per niente. Pensando a te e ai tuoi occhi da cerbiata, bellissimi con un colore che mi affascina, e la tua bocca al gusto di miele, che al baciarti lascia la voglia di farlo ancora. Sei fantastica, sei bellissima, sei un po' pazza, molto strana, ma come già ho detto parlando con te, è per questo che mi sono innamorato di te. Adesso non vorrei che tutto questo finisse, questo amore che mi rende sempre più felice. Incomincio ogni giorno ad amarti di più, e lo so, ti ringrazio perché lo senti anche tu. Grazie amore per tutto quello che fai per me, credimi, mi fai sentire come un re. Nessun giorno tutto questo dovesse finire, non ti scorderò mai perché nessun'altra è come te. Yo, Brighto, Benny, sei veramente una persona molto speciale, amore. Pensi di tutto, sei unica, nessun'altra come te. Ti voglio dire un'altra cosa. Ti amo, ti amo, ti amo. Nessuna. Nessun'altra in questa terra mi ha fatto mai sentire come mi fai sentire tu. Ed è per questo che non potrò lasciarti, perché lo sai, tu sei unica e nessun'altra è come te.